Respiro. Buon pomeriggio da Paola Nania, bentornate all'appuntamento settimanale con Respiro. Oggi ci occupiamo del cosiddetto piano casa, vale a dire del piano straordinario sull'edilizia che è stato annunciato qualche giorno fa dal premier Silvio Berlusconi. Piano straordinario che è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri di ieri, che potrebbe essere approvato settimana prossima. Dunque, rispetto all'annuncio iniziale, il piano è slittato, l'approvamento del piano è slittato. Provvedimento potrebbe essere un disegno di legge, potrebbe essere un decreto, l'ipotesi è stata ventilata, dovrebbe contenere una normativa quadro del governo, normativa destinata alle regioni che possono decidere o meno di applicarla. Per le regioni che applicheranno questo piano casa, cosa succede? Succede che sarà possibile ampliare le abitazioni private aumentando la cubatura fino al 20%, sarà insomma possibile per esempio aggiungere una o due stanze a un appartamento o una villa. Sarà anche possibile, sempre secondo le prime indiscrezioni relative al piano casa, che lo ricordiamo non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, sarà possibile, dicevamo, la rottamazione, chiamiamola così, degli edifici costruiti prima del 1989, con la possibilità di ricostruirli con il 30% di volumetria in più. Ci potrebbe essere poi, al di là di questo piano casa, di questa direttiva che poi le regioni potranno applicare o meno, ci potrà essere anche un disegno di legge per rivedere la normativa statale in materia di edilizia, semplificando per esempio alcune procedure. Insomma, una questione complessa. Per il momento è tutto rimandato, ma le regioni direttamente interessate, come spiegavamo, alla rivoluzione annunciata, iniziano a prendere posizione. Anzi, c'è un caso, il caso della Giunta del Veneto, in cui è stato già approvato un piano casa, un piano che non è ancora operativo, deve ovviamente essere approvato in via definitiva dal Consiglio regionale. Dunque, la Giunta del Veneto ha il suo piano casa. Noi abbiamo chiesto all'assessore per le politiche del territorio, che è Renzo Marangon, di spiegarci il provvedimento che ricalca molto da vicino quello preannunciato dal premier Silvio Berlusconi. Sostanzialmente si tratta di interventi edilizi che vengono favoriti per intanto rispondere alle esigenze della crisi che da noi sta toccando punte molto molto alte. E allora noi abbiamo pensato di promuovere il sostegno di questo settore attraverso degli interventi, chiamiamoli pure finalizzati. Si migliora la qualità abitativa, si mantiene, si preserva, perché non si tratta di nuove abitazioni. Si ricostruisce e si rivitalizza il patrimonio edilizio che è esistente. E come si rivitalizza questo patrimonio? Si rivitalizza in questo modo. Lei può, nell'ambito della sua abitazione, o di proprietà o se a titolo, aumentare del 20% il volume dell'edificio esistente, se destinato al residenziale, e il 20% della superficie coperta se adibita ad uso diverso. Mi spiego, se lei ha un capannone vecchio, e lo un garage vecchio, non un capannone, quello legato al settore produttivo, un garage vecchio e lo abbatte e lo ricostruisce, lei ha diritto al 20% di superficie in più. L'ampliamento deve essere realizzato in contiguità rispetto al fabbricato esistente, ovviamente. Se ciò risulta materialmente o giuridicamente impossibile, potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, se è di carattere accessorio o pertinenziale, però sempre ovviamente nell'ambito di aree destinate alla residenza. Questo vuol dire che la paventata cementificazione è una forzatura, sarebbe come lei dicesse, vado a casa e prendo un bicchierino per un po' tirarmi su. Equazione, la signora è... è sempre agonizzata. Non è vero, ci vuole, dicevano i latini, est modus in rebus, c'è un modo in tutte le cose. Si tratta di interventi anche di miglioramento, perché tutti sappiamo che a volte basta un metro in più, pochi metri cubi in più per completare un edificio, e i regolamenti comunali sono particolarmente in questo caso ritrosi. In più, in un settore come questo si rivitalizza la possibilità di dar lavoro ad un settore che in questo momento, almeno nella nostra regione, è amplissimamente in crisi. Poi esiste l'altra parte, che è quella che prevede l'abbattimento. C'è una vecchia casa, uno la abbatte, o un vecchio capannone. Vecchio di quanto? Dal 1989 indietro. Noi consentiremmo, appena la legge verrà approvata, se verrà approvata in questo modo, la ricostruzione del 20%. Se poi lei la abbatte, la ricostruzione, chiedo scusa, è al 30%. Se poi lei usa dei materiali ecosostenibili, vi è un ulteriore premio del 5%. Questo vuol dire a poter mettere a disposizione. Quindi si ricostruisce fondi, maggiorato del 30 o 35%? 30 o 35% è usata la modalità delle tecniche costruttive legate alla bioedilizia o alle fonti di energia rinnovabile. Devo dire che il nostro progetto di legge ha una temporalità, cioè noi abbiamo previsto che possa durare 2 anni, non di più. Mi sembra abbastanza semplice il contesto nel quale c'è un settore in crisi, sì, ci sono risparmi familiari che non trovano sbocchi di utilizzo, si trovano le modalità con le quali accorciare i tempi, lei sa che il problema per qualsiasi investimento sono i tempi delle autorizzazioni, e si favorisce un settore che in questo momento potrebbe trascinare aumentando i posti di lavoro o riducendo le possibili dismissioni. Il presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Padova, proprio ieri sera ad un'assemblea pubblica nella quale illustravo questa legge, riconosceva non solo la difficoltà del settore, ma riconosceva 25.000 disoccupati, cioè licenziati entro 5 mesi, con 5.000 solo a Padova. 25.000 nel Veneto? 25.000 nel Veneto stimava e 5.000 solo a Padova. Perché? Perché si sono fermate le committenze, quindi i costruttori di case si sono fermati. Quindi è evidente che a un settore con questa crisi si trovano gli incentivi che possono essere di due tipi: o gli dai dei soldi alle famiglie o gli consenti di solleciti, diciamo, il miglioramento. Chiamiamolo penso un piano questo di piccolissime opere, no? C'è stato il piano delle grandi opere, questo è un piano di piccolissime opere. Bravissima, infatti l'abbiamo definita una legge per aiutare le famiglie nelle loro abitazioni, cioè aiuti la famiglia, un investimento sulla propria abitazione lo fa sempre se ha la possibilità di farlo. Abbiamo dunque sentito l'assessore regionale del Veneto Marangon che ci ha spiegato i dettagli del piano casa della regione Veneto, piano casa che dovrebbe essere approvato in via definitiva tra poco dal consiglio regionale, ma c'è a dire il vero anche un nutrito fronte del no per quanto riguarda il piano casa preannunciato dal premier Silvio Berlusconi. Il fronte del no sostiene che ci sia un rischio di cementificazione selvaggia o di condoni mascherati. È per esempio il caso della regione Calabria e dell'assessore all'ambiente Silvio Greco, che è assolutamente contrario al piano così come è venuto fuori finora. Noi l'abbiamo intervistato, sentiamo cosa ci ha detto. La regione Calabria ha già dato, perché noi negli ultimi 30 anni abbiamo fatto di tutto per trattare male questo territorio, sia dal punto di vista architettonico, urbanistico. È famosa questa regione per avere le case con i ferri sul tetto pronti a fare nuovi piani. Abbiamo costruito dove non si poteva costruire i letti dei torrenti, le rive del mare, quindi è evidente che noi guardiamo con grande preoccupazione questo piano, che a nostro avviso è solo uno strumento di populismo e di demagogia, ma che non tiene in conto per nulla lo stato delle realtà regionali. Qual è il rischio di questo piano? Per esempio che aumenti l'abusivismo, secondo voi? A mio avviso sì, anche se il Presidente del Consiglio tende a tranquillizzare, la storia ci dice che quando ci sono state queste aperture, senza in qualche modo legarle a un progetto generale, organico, a una programmazione, l'unico risultato che si è ottenuto è stato questo, cioè una speculazione che poi ha portato a una sanatoria. Noi non vogliamo nelle speculazioni e non vogliamo neanche le sanatorie. Quindi a questo punto la Regione Calabria cosa farà? C'è già un piano casa? Noi abbiamo fatto un piano casa che tra l'altro dal punto di vista economico è di straordinaria importanza, perché si tratta di oltre 250 milioni di euro che noi tra l'altro abbiamo indirizzato in buona parte alle fasce deboli della popolazione, cioè a chi non può permettersi il lusso di comprare una casa a 7.000 euro al metro quadro. Stiamo pensando proprio a tutta una serie di progetti in questo senso, che tutelino le fasce deboli e che consentano a tutti di fare una casa, ma una casa che sia legata a un piano organico, a un centro storico, al rispetto delle regole, a una determinata cubatura, a un determinato inserimento. Se noi vogliamo fare un discorso normale, di programmazione normale, che tenga conto del fatto che la Regione Calabria purtroppo ha già pagato per 30 anni del malgoverno del territorio tutta una serie di problemi, e le recenti alluvioni confermano quello che stiamo dicendo. I soldi che avete stanziato, milioni e milioni di euro, sono destinati a cosa? Darete dei finanziamenti alle persone in difficoltà? Come saranno gestiti? Noi abbiamo individuato tutta una serie di fasce legate al sistema residenziale, quindi in relazione ai redditi, in relazione alle tipologie, in relazione alle situazioni personali, individuiamo dei percorsi che possono garantire a tutti un alloggio dignitoso, ma che sia conforme a uno standard architettonico che tenga conto dei centri storici dove svilupperemo questi percorsi e tenga conto delle realtà. Qual è la differenza tra il piano della Regione Calabria e quello che ha preannunciato il Presidente del Consiglio? Allora, il piano preannunciato, così come si legge, è una generica e generale possibilità di aumentare di una percentuale, senza tenere conto di dove si faranno questi interventi. Cioè, se si parla di case nel centro storico, di ville in campagna o di case già sanate da precedenti abusivi, da precedenti abusi edilizi. Il nostro piano invece è un piano organico che parte da una conoscenza specifica del territorio, che parte da uno stato dell'arte che è compromesso per molti versi, che quindi tiene conto innanzitutto di dove vengono fatti gli interventi e in che modo vengono fatti gli interventi. Questa è la differenza che io ritengo sostanziale. Respiro. Bentornati da Paola Nania, bentornati all'appuntamento con la seconda parte di Respiro. Prima della pausa abbiamo parlato del piano casa preannunciato dal governo, piano casa che in realtà è slittato, potrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri settimana prossima. Abbiamo ascoltato le voci delle regioni, di una regione favorevole a questo piano come il Veneto, di una regione contraria al piano come la Calabria. Continuiamo, come preannunciata, a parlare di edilizia, in questo caso di edilizia scolastica, perché Legambiente ha presentato il rapporto Ecosistema Scuola 2009. Il rapporto definisce cosa? Il quadro un po' della situazione dell'edilizia scolastica. Prato risulta la città più attenta, a Messina, Treviso e Salerno ci sono invece gli istituti più problematici. Abbiamo seguito per voi la presentazione del rapporto e abbiamo parlato con Vanessa Pallucchi, responsabile Legambiente Scuola e Formazione, che ci ha fatto un po' il quadro della situazione. Abbiamo ancora una metà degli edifici che sono stati costruiti prima degli anni 70, quindi del 74, e questo rende anche la difficoltà da parte degli enti locali proprietari degli edifici, che sono comuni e province, alla gestione. Abbiamo un 35% circa di edifici che necessitano di manutenzione urgente, alla quale i comuni non riescono a far fronte. Non ci sono soldi. Noi come Legambiente abbiamo dato anche un'indicazione interessante nel nostro, diciamo, proposta di piano antirecessione, di considerare l'edilizia scolastica un grande cantiere, di aprire una grande opera, perché se ragioniamo solo sulla messa in sicurezza delle scuole e sulla riqualificazione, ad esempio, energetica degli edifici, noi stiamo parlando di 42.000 edifici che hanno bisogno circa 15.000 di interventi urgenti. Mi pare di capire la proposta del governo, che insomma è stata solo annunciata per il momento, del piano casa, del piano straordinario per l'edilizia, non è una soluzione. Dipende come anche viene gestito. Non è che costruire nuovi volumi dà risposte ai bisogni quando c'è un patrimonio che è da riqualificare pesantemente. Qual è la situazione dell'efficienza energetica delle nostre scuole? I dati di quest'anno ci danno un minimo di conforto rispetto a quella che è il miglioramento del risparmio energetico. In particolare abbiamo fatto un'indagine promossa insieme a Edison in 1800 scuole nel paese, e ci è ritornata una fotografia dove ancora sicuramente, se noi pensiamo che c'è un 25% di scuole che dice che ha un riscaldamento che ancora non funziona regolarmente, significa che un 25% di scuole ha una forte necessità di una riqualificazione, di una rinnovamento degli impianti. Questo va anche supportato dal fatto che abbiamo un 20,35% di scuole che soprattutto nel sud Italia utilizza ancora il gasolio, che noi sappiamo essere un combustibile il più inquinante, e solo il 6,03% hanno impianti solari e fotovoltaici. è una tendenza in aumento, però noi ci auguriamo che questo diventi sistema e non sia più fatto, diciamo, in maniera estemporanea con delle esperienze isolate. Alla presentazione del rapporto è stato anche consegnato il primo premio di Kyoto Anch'io, la scuola amica del clima. Insomma, il premio legato al concorso di Legambiente ed Edison per gli studenti sul risparmio energetico e sull'utilizzo delle fonti rinnovabili. La scuola vincitrice è l'ITIS Augusto Righi di Chioggia, in provincia di Venezia. E allora ci siamo fatti raccontare il progetto messo a punto, progetto che ancora è sulla carta, che quindi ancora non è stato messo in pratica, progetto che ci ha spiegato, dicevamo, l'insegnante Roberto Donin e alcuni ragazzi. Ci sembrava opportuno l'occasione che abbiamo avuto da parte appunto di Legambiente Edison relativamente a riqualificare un edificio che è del 72 e quindi costruito con crismi edili basati su calcestruzzi e su finestre e serramenti a vetro semplice, solai e pavimenti non isolati. Noi siamo intervenuti proprio con sistemi a cappotto nelle parti dove c'era il calcestruzzo e con pareti di rifodera interna isolate per dove avevamo invece il faccia a vista. Abbiamo fatto diversi interventi, secondo noi, abbastanza importanti, tra i quali per esempio l'abbassamento con controsoffitti delle aule che presentano notevole altezza e quindi il caldo va a stratificare verso l'alto. Abbiamo fatto in modo dispersione di calore assoluta, in quel caso. Assolutamente sì. Quindi i criteri erano costruiti, ripeto, con una mentalità diversa rispetto alle situazioni energetiche o da fonti energetiche dove si viveva un po' a modi tanto paga pantalone. Ecco. Quindi noi abbiamo per esempio controsoffittato le aule che hanno sono a forma trapezoidale e abbiamo inserito dei sistemi anche di ventilazione, oltre che dei riporti ottici, solari, perché noi abbiamo delle finestre, tipologia di finestra tipo shed, che dovevamo riportare la luce nell'ambiente e quindi creare caratteristiche illuminotecniche adeguate allo studio. E i ragazzi hanno partecipato al progetto, ai lavori? Sì, abbiamo diviso i ragazzi in 8 squadre, una di queste aveva il compito esclusivo di rielaborare i dati delle 7 che riportavano. Abbiamo, poi vedrà anche, non so se nella conferenza stampa, se riusciamo, abbiamo dato dei colori alle zone, alle varie zone, e quindi dei gruppi di 3-4 ragazzi sono partiti e hanno rilevato le situazioni dal punto di vista proprio strutturale e dove notavano quindi deficienze o situazioni critiche. Poi abbiamo fatto anche così, abbiamo dei giardini interni, li abbiamo coperti con dei sistemi trasparenti in maniera tale da fare in modo che il calore che si accumula appunto come apporto solare fosse possibilmente riportato attraverso l'apertura dei serramenti stessi nelle aree, nelle medie stagioni, nelle aree dei corridoi. Quindi è un progetto al momento. Esatto, è un progetto che diciamo che il premio consiste nella realizzazione, nel regalo, nel donarci un impianto fotovoltaico che noi ne abbiamo anche uno di più piccolo già installato. Però dopo con la provincia possiamo anche pensare di metterci d'accordo sul famoso conto energia, e cioè sugli introiti che la provincia ha per minor spesa in campo di consumi elettrici, determinati proprio dalla presenza del fotovoltaico che andremo a installare. Quindi le 8 squadre dei ragazzi di cui mi parlava sono le 8 squadre che hanno progettato appunto questi interventi? Sì, hanno progettato per diverse tipologie, perché avevamo aula magna, palestra, situazioni, le docce, per esempio delle palestre, abbiamo fatto una raccolta di acqua piovana, o meglio un sistema solare termico, abbiamo fatto con bollitore in accumulo per dare acqua calda alle docce di servizio, che sono poche comunque. Poi abbiamo fatto anche delle raccolte di acqua piovana per gli sciacquoni di bagni. Sì, è stato un processo abbastanza lungo, ha impegnato quasi 3-4 mesi del percorso scolastico. Sì, diciamo che abbiamo avuto anche dei momenti di cui potevamo ridere e scherzare, però ci siamo anche impegnati nelle strutture che dovevamo portare a termine, diciamo. Tra l'altro è una cosa che voi fate, che studiate, insomma, sì, vi occupate di quello? Sì, sono le materie che noi studiamo e le abbiamo praticamente raggruppate assieme con l'aiuto di professori e siamo riusciti praticamente a montare su tutto questo lavoro che, insomma, è arrivato a buon termine e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Vittoria, quindi siete soddisfatti? Sì, siamo abbastanza soddisfatti perché alla fine è sempre lavorato un gruppo di persone che sono sempre state unite nel lavoro di squadra, quindi abbiamo raggiunto un notevole risultato. Mi dite il momento più divertente del lavoro, se c'è un episodio? Ma il momento più divertente sicuramente è stato la vincita, perché il processo che per fare i calcoli, diciamo, non è stato divertente. È stato divertente quando è arrivata la lettera che siamo stati vincitori in tutta Italia, diciamo. Sacrifici premiati. Infatti. Cioè, alla fine sembrava che il lavoro è stato duro, sì, però non si pensava mai che si arrivasse alla vittoria. E il momento della vittoria, insomma, per noi stessi, anche per i professori, è stata una gioia, insomma, notevole. La puntata di Respiro si chiude qui. Vi ricordo il sito internet su cui potete trovare le puntate, anche le puntate precedenti, e il sito di Radio 24, www.radio24.it. Vi ricordo la replica, la trasmissione va in forma ridotta anche domani, domenica alle 14. L'appuntamento con Respiro è sempre sabato alle 16.30 in compagnia di Cristina Carpinelli. Un saluto da Paola Nania.